Ottobre piovono libri. Il ministro della guerra Louvois arrivò subito a Pinerolo, fece sostituire tutto il personale della cittadella e nominò il Saint-Mars governatore della Forte d'Exil. Quella che sentite è la voce di Matteo Brancaleoni, attore che legge La maschera di ferro, ma lo fa in un luogo particolare, un tram. Succede a Torino per una delle iniziative di Ottobre piovono libri. Per partecipare a questi viaggi dell'ascolto basta presentarsi alla fermata di via Bertola numero 10, a due passi da Piazza Castello, alle 15.30, dal lunedì al giovedì. Meglio arrivare con un po' di anticipo, visto che l'ingresso è gratuito, ma quando il tram è pieno le porte si chiudono. Sentiamo Mariangela Cotto, vicepresidente del Consiglio regionale piemontese, che promuove l'iniziativa. Al microfono di Marco Ferrando. Vogliamo far circolare la lettura, vogliamo far circolare i libri, quindi sui tram è veramente il posto giusto. Cioè, noi vogliamo lanciare un messaggio a tutti i cittadini torinesi, a tutti i cittadini piemontesi. Leggete di più e vogliamo proprio, in un mondo che parla per immagine, farli circolare sul tram, perché anche sul tram uno può iniziare al mattino, al pomeriggio, non perdere tempo e gustarsi un libro. E ora la reazione di alcune passeggere del tram, sempre al microfono di Marco Ferrando. È una cosa interessantissima e poi c'è la scusa per trovarci con tutte le amiche. Poi un modo da stare tutti insieme anche qua, pomeriggio insieme, io l'ho invitata perché non è mai... È la prima volta, però vediamo. Vediamo anche il panorama, vediamo anche la città, mentre che sentiamo, guardiamo... Scutiamo anche la città. Tocco una cosa interessante, vengo sempre. Quindi verrà altre volte a... Certo, se ci sono argomenti come quello di oggi, altro che... Le letture in trama andranno avanti a Torino fino al 22 ottobre. Per tutte le informazioni su queste e altre iniziative di Ottobre piovono libri, www.cepel.it oppure radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco. Ottobre piovono libri, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.